adesso vieni qua. Non aspettare, dai. Lo sai, non sono tanti questi momenti miei. Ho voglia di parlare e stare un po' con te. Dirti due parole o forse tre. So che spesso sono assente, quasi indifferente, pago con la mente. E ti lascio sempre sola, senza una carezza, neanche una parola. Ma stasera lascio i miei pensieri, la chitarra e questa distrazione. Ti tengo vicina e ti sussurro nell'orecchio piano una canzone. Quando porti a tavola la cena e poi aspetti che ti dica qualche cosa. Quando la mattina non mi lasci andare, mi tieni più stretto e sei gelosa. Io sento che sarei perso senza te. Adesso ascolta un po' quello che devo dire, non ridere se no, non ci posso riuscire. Stasera vuoto il sacco e mi metto nei guai. Voglio provare a dire ciò che non dico mai. So che sono un po' distante, ruvido e scostante, spesso latitante. E ti ascolto distrattamente, con aria indolente, a volte sufficiente. Ma stasera lascio le mie carte e i libri, il piano e questa confusione. Ti tengo vicina e ti sussurro nell'orecchio piano una canzone. Quando prima di dormire dentro il letto ti avvicini e cerchi la mia mano. Quando ti chiamo al telefono e mi dici che stai male se sono lontano. Io sento che sarei perso senza te. Porti a tavola la cena e poi aspetti che ti dica qualche cosa. Quando la mattina non mi lasci andare, mi tieni più stretto e sei gelosa. Io sento che sarei perso senza te.